Oggi abbiamo la fortuna di essere in compagnia di Liana Bertolazzi, lei è organizzatrice del Inte Festival Bologna 2019. Ciao Liana! Salve a tutti, buongiorno! Allora, con te vorremmo parlare innanzitutto del festival che ci sarà dall'1 al 3 marzo a Palazzo Pallavicino in via San Felice 24 e di come nasce, di cosa parlerà quest'anno. Allora, quest'anno sarà un festival dedicato dal titolo Il Tea Party più lungo del mondo e abbiamo dato, la preferenza quest'anno a un tè europeo nel modo di proporlo, di servirlo, molti eventi dedicati al tema, 45 gli eventi quest'anno con 13 espositori, due tavole rotonde e una mostra molto interessante sui luoghi e i volti del tè. E in particolar modo abbiamo parlato di stile italiano e stile europeo. Di cosa si tratta? Allora, lo stile europeo, per definizione, potremmo definirlo l'afternoon tea, no? Il celebre modo di servire il tè inglese. E per parlare di questo ci sarà a Bologna una guru del tè, Jane Pettigrew, molto conosciuta dalla comunità dei tea lovers, che porterà due corsi, uno appunto dedicato all'afternoon tea, cioè come fare un perfetto, come tu, i segreti di un perfetto afternoon tea, e poi ci introdurrà le novità del mondo del tè con un corso che si chiama Tea Trends. Perfetto, Liana. Un'altra cosa che leggendo il programma ho notato è che si parla anche di yoga. Sì, quest'anno ci sarà una sala dedicata allo yoga. Ecco, per quello che riguarda, gli ingressi, l'ingresso al festival è sempre gratuito. L'evento yoga è gratuito con obbligo di iscrizione dal nostro sito che è www.in-alto-te.it. Lì troverete tutte le informazioni e poi anche le descrizioni, perché si parla di yoga, ma chi conosce lo yoga sa che non c'è un solo tipo, quindi si andrà dalla Kundalini, insomma, l'hatha yoga. Molte sorprese anche sotto questo profilo per i 3 giorni di festival. 3 giorni di festival che ricordiamo essere dall'1 al 3 marzo. Un altro tema che sarà al centro del festival è il tè. Oltre all'infusione, come utilizzarlo? Sì, quest'anno abbiamo pensato il tè appunto nella declinazione italiana. Noi italiani siamo amanti della buona cucina, degli abbinamenti ai cibi e quindi ce ne parlerà durante il festival la chef Pina Siotto. Ci insegnerà non solo come cucinare con il tè, ma anche il modo migliore per abbinarlo a dei cibi che sono della nostra cultura, ecco, non più di culture orientali, magari così. Pina ci parlerà anche di un tè che in questo momento è molto in voga, è una fermentazione del kombucha, e con lei, insomma, quindi per imparare tutti i segreti appunto di preparazioni e abbinamenti. Sempre in tema di preparazioni avremo anche un bio barman che si chiama Marco Dalboni, autore anche di un libro sul tema appunto delle preparazioni con frutta e verdura nelle 4 stagioni, che abbinerà con il progetto, il programma si chiama Cocktails, questi abbinamenti tra cocktail e tè. Benissimo, Liana, noi ti ringraziamo. Allora, quindi l'appuntamento, lo ricordiamo, è a Palazzo Pallavicini per il Bologna Tea Festival 2019 dall'1 al 3 marzo. Grazie a tutti, buona giornata.